L'ammirazione per i lavori dell'ingegno è certo un sentimento dolce, nobile, una forza, non so se ragionevole, ma comune. Ci porta a provare ancor più un tale sentimento quando gli uomini che ce la ispirano sono nostri concittadini. Ma l'ammirazione non deve mai essere un pretesto alla pigrizia. Non deve mai includere l'idea di una perfezione che non lasci più nulla da desiderare né da fare. E come nelle opere della produzione materiale, così in quelle dell'ingegno, ogni generazione deve vivere del suo lavoro e riguardare il già fatto come un capitale da far fruttare, non come una ricchezza che dispensi dall'occupazione. FP. Che significa FP? Si tratta di un'abbreviazione per felici pochi. Ah. E chi sono i felici pochi? Spiegarlo non è facile, perché i felici pochi sono indescrivibili. Benché pochi, ne esistono ad ogni razza, sesso, nazione, epoca, età, società, condizione, religione. I poveri e diritti. Però, se nascono poveri, loro in generale tali rimangono. E se nascono ricchi, presto si fanno poveri. Di giovani e di vecchi. Però difficilmente loro arrivano in tempo a farsi vecchi. Di belli e di brutti. A vero dire, loro, pure quando siano volgarmente intesi brutti, in realtà sono belli. Ma la realtà è di rado visibile alla gente. Insomma, qui si certifica in fede che gli FP sono tutti e sempre bellissimi, anche se per conto suo la gente non lo vede. Infine, tra le tante loro varietà, basti nella presente esposizione divulgativa aggiungere che ve ne sono di celebri e flagranti e di sconosciuti e nascosti. Però quando celebri, la celebrità non dimostra abitualmente una gran fretta di abbracciarli da vivi e gode meglio a raggiungerli in una postuma stretta, allorquando sono già deceduti. E dove stanno di regola costoro? Non c'è regola. In vero, il loro proprio elemento naturale non è mai stato scoperto finora in biologia. Se ne trovano sulle Himalaya e sul mare, in città, nel deserto, al centro e in periferia, dentro i vicoletti, sulle autostrade, può darsi pure nelle lune e negli astrosi pianeti e persino nei ministeri. Mai però negli alti gradi della burocrazia o alle diverse incombenze d'autorità ufficiale, per cui sempre hanno sofferto di una grave allergia. Se ne possono incontrare all'università, all'osteria, in fabbrica, in galera, nei bordelli, nei convetti, al teatro, al ballo, al caffè, fra i sapienti analfabeti, nei ghetti, nelle cavane, nelle sotterranee, all'ospizio dei vecchi, all'ospedale dei matti, ne spuntano magari nei climi meno adatti e si nascondono lì dove meno te lo aspetti. Però questo per noi non va. Niente da fare. Adesso, lei ci fornisca, per favore, d'urgenza, nome, cognome e indirizzo di qualche tipo FP di sicura autenticità, per tenerne qui un piccolo stock a disposizione, senza tanta fatica e complicazione. Capitolo 1. C'è qualcuno che sa dire di che nazione è un fiore? Al centro del mondo, dicono certi vecchi del Rialto, che siamo noi altri, i venesiani. De Venezia. E al di là del ponte della libertà che porta in terraferma, che sei campagnoli, che dice di essere veneziani e di parlare veneziano, ma noi sei veneziani, che sei campagnoli. Al di là dei campagnoli, che sei foresti, comaschi, bergamaschi, canadesi, parigini, polacchi, inglesi, valdostani, tutti i foresti. Al di là dell'Adriatico, sotto Trieste, che c'è i Sciavi, gli Slavi e i Zingari. I Zingari! Sotto è Po, che sei napoetani. Più sotto ancora dei napoetani, che sei mori, neri, arabi, metici, tutti mori. Una donna, India, col volto ovale, i grandi occhi neri, i seni prosperosi, professione rivoluzionaria. La più celebre eroina del Risorgimento italiano non era italiana. Era una brasiliana, Ana Maria de Jesus Ribeiro, discendente da una famiglia portoghese emigrata in Basilea del Giorno. Nata nel villaggio di Morrinhos, probabilmente il 30 agosto del 1821. Nel luglio del 1839, all'età di 18 anni, Anita incontra Garibaldi alla Luna, nella provincia di Santa Caterina. Da quel momento, dopo aver abbandonato il marito, Anita sarà la donna di Garibaldi, la madre dei suoi figli e la compagna di tutte le sue battaglie. Partecipò con lui a varie azioni, nelle quali rischiarono ambedue di perdere la vita, come nello scontro con le navi dell'armata imperiale, che lo stesso Garibaldi rievoca con parole di ammirazione. Anita fu l'eroina sublime di questo combattimento. In piedi, sulla poppa, nel mezzo della mitraglia, appariva dritta e fiera, come una statua di Pallade. Nel 1848, alla notizia delle prime rivoluzioni europee, Anita con i figli si imbarca per l'Italia. Laguna, 13 novembre 1839. Fortunata, cara amica mia, sento che tra poco dovrò lasciare la Luna. Vorrei che tu conservassi qualcosa di me, oltre ai ricordi che si annebbiano con il tempo. L'unica cosa che possiedo è il mio paio di forbici, che tu mi avrai visto usare mille volte. C'eri anche tu quel giorno a casa di zio Antonio, quando mi disse che mi voleva regalare il paio di casa sua. Perché mi ricordassi che per una donna è molto necessario sapere che cosa e quando tagliare nella propria vita. Tante sono le cose, diceva lo zio, ma specialmente quelle che ti tengono prigioniera. Le lascio per te, con questa nota, a Maria Rosario, perché te le dia dopo la mia partenza. No, non voglio dirti addio. Tienile come pegno del mio affetto e segno del mio passaggio. Lasciale ai tuoi figli, che le tengano care. Sento che io non rivedrò più Laguna. Ma chissà, forse un giorno qualcuno del mio sangue tornerà e le sue dita toccheranno il ferro che le mie hanno tenuto. Usale tu, carissima, per mio ricordo, che ti portino ogni bene. Anigna, Ana Maria Ribeiro da Silva, Anita Garibaldi, morta di febbre malarica in età di 28 anni, incinta di 6 mesi, nel 1849, a 12 anni dall'Unità d'Italia. Monti chiavi là come giumenti, sulla gelida prua mossa dai venti, migrano a terre ignote e lontane, laceri e macilenti. Varcano i mari per cercare del pane, traditi da un brigante menzognero, vanno oggetto di scherno allo straniero, bestie da soma, dispregiati idioti, carne da cimitero, vanno a campar d'angoscia in lidi ignoti. Thank you.

Io sono vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, morto di consunzione carceraria in età di 46 anni, nel 1937, anno 76 dell'Unità d'Italia. Padrona mia, ti voglio arricchire. Padrona mia, ti voglio arricchire. Sia avere dei bambini. in grado di entrare nel mondo cosiddetto adulto, creando essi stessi e non invece appropriandosi o distruggendo. Creare è una forma di maternità, educa, rende felici adulti in senso buono. Non creare è morire, e prima, irrimediabilmente, invecchiare. Una donna austera, elegante, sempre vestita di nero, di professione pedagogista, filosofa, medico, scienziata, educatrice e volontaria. Il lavoro delle mani deve sempre accompagnare il lavoro della mente. Certo, l'intelligenza può raggiungere un alto livello senza l'uso della mano, ma con essa raggiunge un livello ancora più alto. L'analisi geometrica delle figure, ad esempio, non è adatta all'età infantile, ma io ho sperimentato un mezzo di iniziare tale analisi, limitandola al rettangolo e giovandomi di un gioco. Il rettangolo che uso è il piano da lavoro dei bimbi, il gioco è l'apparecchiatura della tavola. Ho fatto acquistare in tutte le case dei bambini una collezione di piccole stoviglie minuscole, piatti, scodelle, zuppiere, insalatiere, bicchiere, piccole posate e tovagliolini. Faccio apparecchiare la tavola per 6, mettendo 2 posti ai lati più lunghi e 1 posto ai lati più corti. Un bambino trasporta gli oggetti e li depone dove io indico. Vuoi mettere la zuppiera al centro della tavola? E questo tovagliolino in un angolo? Mettiamo questo piatto a metà del lato corto? Poi osserviamo la tavola. Manca qualcosa in quest'angolo, un bicchiere lungo questo lato, c'è tutto ai 2 lati lunghi. I bambini dimostrano un grande interesse per le materie astratte quando vi arrivano attraverso un'attività manuale e si avanzano in campi del sapere ritenuti finora inaccessibili per loro, come la matematica, la grammatica. Mi chiedo come sia nata la teoria che per lavorare con le mani si debba avere una mente incolta, che a una mente coltivata debba corrispondere l'incapacità di adoperare le mani. Forse che un uomo deve essere classificato o come un lavoratore del cervello o come un lavoratore manuale, e non gli si deve permettere di operare con tutta intera la sua personalità. Ma com'è possibile accettare come logica l'opinione che uno sviluppo unilaterale possa essere benefico per il tutto? Oggi, nei congressi, personalità molto eminenti che hanno dedicato tutta la vita all'educazione discutono gravemente su cosa sia da preferirsi: il metodo pratico o una disciplina intellettuale. Ma noi bambini stessi hanno rivelato che la disciplina può essere solo il risultato di uno sviluppo completo e di un'attività mentale aiutata da un'attività manuale. Permettete al tutto di funzionare insieme e avrete la disciplina e non altrimenti. Tribù, gruppi, nazioni sono il risultato di una tale associazione spontanea. Esiste un solo problema ed è lo sviluppo umano nella sua totalità. Quando si ottiene questo in un qualsiasi unità, si tratti di un bambino o di una nazione, tutto il resto seguirà da sé, spontaneamente e armoniosamente. Maria Montessori, morta esule di vecchiezza comune in età di 81 anni, nel 1953, anno 91 dell'Unità d'Italia. Presto vieni qui da solo fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per 3, sono bravi e non piangono mai. Il primo giorno però vedrai, ti ci abituerai, ti sembrerà una cosa normale fare la fila per 3, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Insegnerò a lavorare, a recitare. e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi, di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è basta appena per me, perciò smettetela di protestare. Quando arriva il direttore, tutti in piedi. Tutti in piedi e parte Melema. Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. E sempre in fila per tre, facciate tutti con me e ricordate i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Capitolo quarto. Perché la pazzia, amici miei, non esiste. L'uomo è socialmente cattivo, un cattivo soggetto, e quando trova una tortora, qualcuno che parla troppo piano, qualcuno che piange, gli butta addosso le sue colpe e così nascono i pazzi. Perché la pazzia, amici miei, non esiste. Esiste solo nei riflessi onirici del sonno o nel terrore che abbiamo tutti inveterato di perdere la nostra ragione. Nel manicomio non ci sono oggetti di uso personale. I pochi mobili resistenti sono per tutti. Ci sono tavoli, sedie, panche, letti e solo qualche robusto armadio. E poi ci sono gli internati. I mobili e gli internati abitano il manicomio. I mobili vanno conservati puliti, ordinati, non devono essere mai spostati o creerebbero troppa confusione. I malati anche non vanno mai spostati, bisogna lasciarli in pace. Mobili e internati, a testimonianza della fissità, dell'immobilità reale e simbolica dell'istituzione. I mobili sono corpi, sono uomini in piedi, rigidi, fissi, sono seduti come fossero sedie. Gli internati sono sedie, il corpo perduto diventa panca, sedia, e l'istituzione perpetua con l'internato il rapporto di manutenzione che ha con gli altri oggetti del manicomio. Un uomo alto 1,78, largo di spalle, occhi castani, segni particolari nessuno, professione psichiatra, neurologo, riformatore della psichiatria italiana, fondatore della concezione moderna della salute mentale. Nel 62, quando io e altre persone che lavoravano con me abbiamo cominciato questa trasformazione, gli infermieri mi chiedevano: ma senta, professore, ma dove vuole arrivare? Ma cosa vuole fare? E io rispondevo sempre: non lo so. In effetti non lo sapevo. Mi chiedevano: ma come? Vuole cambiare le cose? Non vede che non è possibile? Però giorno per giorno le cose cambiavano. Ciò che è avvenuto in questi anni noi stessi non lo comprendiamo bene. Non comprendiamo per quale ragione prima c'erano 1000 persone in ospedale e oggi non ci sono più. Come mai questa istituzione ha cambiato la sua cultura, i suoi limiti? Come mai il manicomio, che era chiuso, è ben delimitato dalle sue mura? Oggi non ci sia più e al suo posto ci sia un nuovo rapporto tra chi ha bisogno e chi che risponde ai bisogni, tra noi e gli utenti. Direi che il superamento dell'ospedale non è avvenuto con una tecnica particolare, è avvenuto lavorando, giorno per giorno, disperatamente. Se noi pensiamo alla storia che ha portato al superamento del manicomio, vediamo che questo certo non è avvenuto per opera dello Spirito Santo. E se trasformazione c'è stata qui a Trieste, questo non è dipeso solo da me, ma dallo sforzo partito da tutti, dagli infermieri, dai medici, ma soprattutto direi dalla forza operante dei degenti, dei malati, dei pazzi, quelli che oggi noi chiamiamo utenti, perché se non ci fosse stata questa forza trasformatrice nella gente che noi abbiamo curato, nelle persone che venivano a domandare aiuto, noi non avremmo cambiato niente, non avremmo fatto storia. Franco Basaglia, morto per un tumore al cervello in età di 56 anni, nel 1980, anno 119 dell'Unità d'Italia. Spazio, spazio, io voglio tanto spazio per dolcissima muovermi ferita. Voglio spazio per cantare, crescere, urlare, saltare il fosso della divina sapienza. Spazio, datemi spazio, che io lanci un urlo inumano, l'urlo di silenzio degli anni che ho toccato con mano. Spazio, datemi spazio, che io lanci un urlo inumano, l'urlo di silenzio negli anni che ho toccato con mano. Capitolo quinto. Guai ai tempi che hanno bisogno di eroe. Teresa era tanto minuta e graziosa che pareva un giocattolo e tutti la chiamavano Teresina. Viveva col babbo, la mamma, la nonna e il fratello in un paese sulla montagna. Un giorno scoppiò la guerra e il babbo di Teresina dovette partire soldato e la mamma e la nonna si disperavano, abbracciandosi, e Teresin domandò: «Ma perché piangete?» «Povera Teresin», rispose la nonna, «il tuo papà non tornerà mai più!» «Ma io non voglio! Scriverò al re che lo faccia tornare, perché io voglio vederlo ancora e che stia sempre con noi!» «Ma il re non può fare più niente per il tuo papà!» disse la nonna. Il re l'ha mandato in guerra, la guerra è finita e il re l'ha vinta, ma noi l'abbiamo perduta, perché il tuo papà è morto. Ma non è giusto, questo mondo non è giusto, e io non ci voglio stare. Bambina mia, disse la mamma, quando crescerai capirai tante cose che adesso non puoi capire. Ma io non voglio capire, non voglio sapere niente, anzi, non voglio nemmeno crescere, resterò piccola, per sempre. E così fu, non crebbe più, restò com'era, piccola, graziosa e triste. Non voglio averci a che fare con questo mondo così ingiusto. Intanto la mamma, un po' per il dolore, un po' per le fatiche, si ammalò gravemente e dovettero portarla all'ospedale. In casa tutto il lavoro toccava la nonna, che era già tanto vecchia. «Ah, povera me!» diceva la nonna portando l'acqua alla fontana. «E non ce la faccio più con queste secche! E se almeno tu, Teresin, fossi un po' più grande, mi potresti aiutare!» Teresin, di nascosto, si provò a sollevare una secchia piena d'acqua. Ma non ci riuscì. «E pazienza! Bisognerà che mi rassegni a crescere un pochino!» E così fece. Si lasciò crescere una spanna, prese le secche e andò alla fontana. La mamma era ancora all'ospedale quando la nonna morì. Teresina rimase sola con suo fratello Anselmo, che adesso faceva la prima elementare. Doveva svegliarlo alla mattina, stare attenta che si lavasse le orecchie, preparargli la cartella e la colazione, accompagnarlo a scuola, fare la spesa, cucinare il pranzo, pulire la casa, rifare i letti, mandare la mucca alle galline, zappare l'orto e troppe cose! Bisognerà che mi rassegni. crescerò un altro pochino. E così fece, crebbe un'altra spanna e i lavori le sembrarono subito più leggeri. Qualche volta, vedendosi nello specchio dell'armadio quanto si era fatta alta, si rattristava moltissimo, brontolando tra sé. Ma che bella fermezza di carattere, Teresina. Avevi deciso di restare piccola, ed eccoti lì. A momenti non ci stai neanche più nello specchio. Un giorno si seppe che sulla montagna si era stabilito un feroce brigante. Fu lui stesso a farlo sapere. Comparve in paese, armato di tutto punto, e ordinò che gli fosse consegnato un chilo d'oro. Si sedette sui gradini della chiesa ad aspettarlo. Se mancherà un solo grammo, brucerò le vostre case, una per una. Nessuno aveva il coraggio di affrontarlo. Teresina, invece, girava per le case e i campi a incoraggiare gli uomini. E su, e metteteli insieme, l'unione fa la forza, voi siete in tanti, e il brigante è uno solo. Nessuno le dava retta. E va bene, ci penserò io. Rientrò in casa e si mise davanti allo specchio. Voglio crescere ancora. Voglio diventare una gigantessa. Subito cominciò a crescere. Crebbe finché non toccò il soffitto con la testa. Ma questo non le bastava e uscì in cortile per poter crescere liberamente. Crescerò fino al camino. Decise e così fu. Adesso era sicura e pronta per quel che voleva fare. Fu una cosa molto semplice. Le bastò arrivare in piazza e mostrarsi al brigante, il quale, quando si vide venire incontro a un gigante, fece cadere lo schioppo e se la diede a gambe. Teresina si guardò intorno, vide la gente uscire correndo dalle case, udì le grida di gioia e evviva delle donne e dei ragazzi. Si voltò e tornò verso casa. Stavolta l'ho fatta grossa. Per aiutare gli altri mi sono messa in un bel pasticcio. Una gigantessa, un mostro sono diventata. E pazienza, qualcuno doveva pur farlo. Ma proprio allora successe una cosa straordinaria. Ad ogni passo Teresina perdeva un buon pezzo della sua tremenda statura. Un passo dopo l'altro la gigantessa rimpicciolì e lasciò il posto alla Teresina di prima, la Teresina di sempre. La gente che accorreva non credeva ai suoi occhi. Ma come hai fatto? Teresina che non cresce. Teresina sorrideva, senza rispondere. Era una ragazza troppo semplice per sapere che chi si batte contro l'ingiustizia diventa un gigante, senza cessare di essere una creatura normale. Ma era contenta e si sentiva in pace con il mondo, perché aveva potuto fare qualcosa per cancellare un po' della sua cattiveria. Sarda, capelli biondi e occhi chiari, professione agente di polizia, italiana. Guai ai tempi che hanno bisogno di eroi. Chi lo diceva? Il nostro tempo, che è stato chiamato fiacco, pigro, egoista, forse proprio per contrasto, sembra affamato di eroi. Li inventa, li crea, li propone all'attenzione pubblica. La parola eroe non mi è molto simpatica, perché porta con sé l'idea del sacrificio. Eroe è chi lotta con eccezionale coraggio e generosità fino al cosciente sacrificio di sé, per una ragione o per un ideale ritenuti validi e giusti, scrive il nuovo Zingarelli. Ma che strazio! Questi nuovi eroi che cadono senza neanche saperlo, fatti a pezzi con il tritolo, mentre pensano di andare al lavoro. È quello che è successo ad Emanuela Loi, la ragazza sarda che era partita da Sestu, vicino a Cagliari, per andare a fare la sua piccola guerra per il lavoro, per l'indipendenza. Nessuno le aveva detto che sarebbe capitata in una guerra vera. che sarebbe stata mandata in prima linea, al fronte. I genitori, gli amici, hanno riferito che Manuela non faceva la poliziotta per vocazione. Era una ragazza allegra, pacifica, aveva preso il diploma di maestra elementare. Le fotografie mostrano una ragazza curiosamente poco mediterranea, con i capelli biondi e gli occhi chiari. E qualcosa ricorda nel suo ingenuo e fiero modo di indossare la divisa, nel suo sorriso impacciato per il fotografo, una soldatessa americana presa prigioniera qualche anno fa. Anche lei bionda, anche lei sorridente, travolta dal grande sogno di emancipazione attraverso il fucile. Hanno ragione quelli del servizio scorte che dicono: siamo inutili, moriamo per nulla. Non ci manca il coraggio di combattere, ma ci sembra grottesco morire così, per nulla. E a guardare i film delle stragi non sembra che le scorte servissero a qualcosa, se non come graziosi compagni di viaggio per l'aldilà, come si faceva al tempo dei grandi tiranni, che pretendevano di essere scortati dalle spose, dagli amici, dalle serve, dai cani. Se non ci fossero le scorte, non ci sarebbe bisogno di mettere le bombe. Basterebbe un fucile, come hanno sempre fatto i mafiosi. Sono proprio le scorte che costringono i mafiosi a ricorrere a metodi più plateali e collettivi. Se Borsellino non si può raggiungere con il fucile, perché è circondato dalle sue guardie, allora prendiamoli tutti in mucchio e facciamo saltare in aria con l'esplosivo. Sto parlando per paradosso, spero che sia chiaro, ma davvero vogliamo difenderci dalla mafia con le scorte, le macchine blindate, le mitragliette, i vetri antiproiettili? Queste sono solo pecette, come si dice a Roma, bendaggi, toppe, cerotti sopra un corpo mortalmente malato. Se non si comincia con il distruggere quella oscena commistione tra politica e mafia, al tempo soprattutto delle elezioni, non cambierà mai un accidente. Si fa finta di non sapere che ad ogni votazione si compie un orribile scambio. Tu mi dai i voti e io chiudo un occhio, taccio quando dovrei parlare, ti passo gli appalti migliori, ti garantisco l'immunità, il silenzio. Mi chiedo come abbia votato Emanuela. Non sarà che per avere un posto sicuro le è stato chiesto, come succede a tanti suoi coetanei, di dare la sua fiducia, la sua adesione ad un partito anziché a un altro? È questo che succede. Provate a chiederlo ai giovani siciliani, calabresi o sardi. Per avere un posto si chiede un gesto di fiducia. Il giovane lo fa generosamente, senza pensarci su. Cos'è un voto in fondo? L'importante è lavorare, guadagnare qualcosa, andare via da casa, dal paese, non dover badare alle pecore e poter studiare, avere una casa. I partiti che prendono voti dati in buona fede, ma estorti con promesse di lavoro, pensano in cuor loro di poterli dominare, questi procacciatori di voto. E invece no, la mafia non dà niente, prende soltanto, e vi porge un dito, ci rimette un braccio. Ma ora, guardando questa piccola fotografia di una donna col fucile, ci chiediamo: ma quanti ne debbono morire ancora, uomini, donne armate, perché cessi questo turpe commercio? Manuela Loi è morta in servizio in età di 24 anni nel 1992. nell'anno 131 dell'Unità d'Italia. Sono venuta a trovarti, Peppinuccio. Ho sognato che mi dicevi: ma ho freddo. Ho visto che tiravi, come facevi da bambino, la coperta sulla testa. E poi rimanevi coi piedi scoperti. I morti stanno coi piedi all'aria. Mi piaceva guardarti camminare quando eri piccinito. Tenevi le punte all'indentro, come le paperotte. Peppinetto mio. Ti ho portato un poco di fiori, Peppinetto. Anche se a te i fiori non ti piacciono. Dici che portano iella. Ma perché? Sono tanto profumati. È proprio quello, mamma, che non mi piace. Il profumo. A me piace il profumo della pasta al sugo. Il profumo di un cannolo fresco, con la ricotta che rigurgita di fuori. Il profumo del mare. Ma il profumo dei fiori che è? Una roba da morti. Il tempo è fatto strano, bambino mio. È fatto come un binocolo, che lo guardi dritto e ti fa vedere le cose vicine, vicine. Lo guardi rovescio e ti fa vedere le persone lontane, che camminano e camminano. Sono venuta per maledirti. Quello che fascisti è un malanno che ci ha storpiati tutti. Tuo padre che è morto di dolore. Tua sorella che se n'è andata in Canada per non essere presa di mira. Solo io sono rimasta nella casa vuota a pensare a te e alla maledizione che ci gettasti addosso. Mamma, sono in prigione. Te la ricordi la telefonata? Io che non capivo. Dove? Dove stai? In prigione, ma a fare che? Sono stato preso. Ma preso come? Preso. Ma perché? Mamma, non fare tante domande. Portami 4 camicie pulite e un poco di soldi. Ma dove? Quale prigione? Vennero i poliziotti. Suo figlio sta in galera. Si trovi un avvocato. Hanno frugato dentro casa per una giornata intera. Ma che ha fatto? Che ha fatto? Nessuno che mi diceva una parola. Uno si accendeva la sigaretta. Un altro si puliva i denti con lo stecchino. Dico, ma mi volete dire qualcosa? Poi venne Iddu, il capo di tutti i capi, uno proprio bello, vestito elegante, e mi disse: suo figlio è accusato di delitti gravi, lo convinca a parlare, gli faremo lo sconto. Ma quale sconto? Di che? Gli parli, signora, gli dica di dire tutta la verità, tutta, che poi saremo generosi. Lui è innocente, dico, capitano. Non sono capitano, sono brigadiere. È innocentissimo, posso assicurarlo, capitano. Non ha fatto niente. Non è proprio capace di fare niente. O se ne sta sdraiato sul letto o seduto a tavola. Ma che lavoro faceva? Niente, non lavorava. Se ha un figlio pure lei, lo deve sapere che i figli qui non lavorano. Sono senza lavoro. Aveva una donna? Aveva questa rosa che gli voleva bene. Ma sapessi come cucina bene rosa, meglio di te. Lo diceva per farmi arrabbiare, mica era vero. Una volta ho assaggiato le salte a beccafico fatte da lei. Erano tutte umidicce. Non c'ha mano sta ragazza, non ce l'ha. Dopo una settimana vengono di nuovo. Si portano via altre carte. Il brigadiere sulla porta mi fa: è stata brava a convincerlo, ha parlato, ora lo mandiamo al sicuro. Io? Capitano, io? Ma se quando l'ho visto dietro al vetro manco gli ho detto una parola, anzi una sì gliela dissi. Che combinasti, cretini? E niente, ridacchiava. Non gli dissi di parlare. Noi siamo gente onorata, capitano. Non andiamo mica sputtanando gli amici in giro, anche se lo meritassero. E invece Iddu parlò. Così mi disse il capitano. E mise nei guai altre persone, tante e persino importanti. Ma ti potevi tenere la lingua dentro la bocca? figlio mio sciagurato! Venni proprio per dirti che io non ti riconosco come figlio. Io la lapide già la spaccai quando venni la prima volta. Col martello la spaccai. Perché in famiglia uno come te non ce lo voglio. Capito? Io non uscivo più di casa. Avevo tutti gli occhi su di me. L'hai convinto tu, vecchia pazza. Gliel'hai detto tu di parlare, vecchia schifosa. La pagherai. Mi facevano trovare i topi morti sullo stuolino di casa. Una volta perfino un coltello dentro una busta. Per questo ho dovuto chiamare il giornale e dirci che io ti ripudio. Tu non sei mio figlio. Io in carcere non sono mai venuta. Mai ti dissi di parlare. Mai ti dissi una parola. E dopo di allora mi lasciarono stare. Ma stanotte ho fatto il sonno. Ho freddo, ma mi facesti pena. Coi piedi di fuori, nudi, bianchi. Tu che amavi tanto le scarpe eleganti, le scarpe costose. Ora con quei piedi nudi mi fai proprio pena. Ti ho portato un paio di scarpe buone. Non proprio eleganti come quelle di castagne, ma nuove nuove, le comprai al mercato. Venni di nascosto, perché nessuno mi doveva vedere. Per questo mi alzai alle 5 e dissi alla vicina che venivo a salutare mio marito, tuo padre. E invece ti ho portato le scarpe, per il gran freddo che hai a quei piedi che tutta la notte me li sono sognati, nudi, che neanche riuscivi a camminare. Ora le lascio qui. Prima di infilarle però pulisciti quel sangue che ha fatto le croste e lavati la terra che sei tutta raggrumata. Mettiti ste scarpe e cammina in pace. Ti voglio vedere camminare come quando eri picciriddu e te ne andavi davanti a me con le punte in dentro come le paperette. Cammina, ma in fretta, che ti cercano da queste parti per spararti in faccia. Figlio mio, vai, corri, vai! Banchi di imputati a dittare leggi, a scrivere sentenze di morte, cui mano un sangare di. Cui mano un sangare di. Avimo cai compari da mafia, cui mano puliti. I Ferrara di chiavi fausi sbocchiartati, qua croce in tuo petto. Posano i piedi sicca l'erba, sicca l'acqua, spuntano spini e per lacrimi passi cili. L'avimo che l'affamati tu putiri, l'affamati di carne cruda, aprirono a Sicilia un porco scannato, un porco scannato. E ci spurpano l'ossa. Ci spurpano l'ossa. Semplicemente non volevo sposarmi con un uomo che non amavo. e preferivo restare tutta la vita da sola piuttosto che farlo. Ritenni quel gesto non un atto di grande coraggio, ma una normale scelta dettata dal cuore. Certo, per me non è stato facile allora riprendere la vita di tutti i giorni, ma quella fu una scelta decisiva. Il 26 dicembre del 1965, all'età di 17 anni, Franca Viola, figlia di contadini, venne rapita da Filippo Melodia, un suo spasimante da sempre respinto, imparentato con la potente famiglia mafiosa dei Rimi, che agì con l'aiuto di 12 amici. La ragazza venne violentata e quindi segregata per 8 giorni in un casolare al di fuori del paese, dove poi fu liberata con un blitz dei carabinieri. All'epoca, una violenza sessuale non era reato contro la persona, ma solo un oltraggio alla morale e la donna colpevole della situazione. Per non rimanere zitella a vita, da maligni chiamata di allegri costumi, si rassegna la donna a salire sull'altare e a scorrere i giorni col suo stupratore. La legge italiana non era in aiuto, anche se il danno era contro un minore, lavando il reato di violenza carnale col matrimonio riparatore. Articolo 544 del Codice Penale. Franca Viola non accettò il matrimonio riparatore. Il caso toccò profondamente la sensibilità delle persone. Se ne discusse a lungo, nelle case, sui giornali e persino in Parlamento. 16 anni più tardi l'articolo 544 venne abrogato e la facoltà di cancellare una violenza sessuale venne eliminata. Per tutte quelle donne che dopo di lei ebbero il coraggio di dire no, Franca Viola divenne un simbolo di libertà e di dignità. Ho dovuto attraversare momenti tristi, di sofferenza. È stata un'esperienza decisamente negativa, però ero contenta quando sentivo di altre ragazze che si erano salvate facendo la mia stessa scelta. Mi faceva piacere sapere che, anche se indirettamente, ero stata io ad aiutarle. Quella legge era evidentemente ingiusta e andava cambiata. Franca Viola vive ad Alcamo, provincia di Trapani, ha 64 anni, 3 figli e 2 nipoti. Oggi hanno 150 dell'Unità d'Italia. Chi si spaventa quando sente dire rivoluzione, forse non ha capito. Non è rivoluzione tirare un sasso in testa ad uno sbirro, sputare addosso a un poveraccio che ha messo una divisa non sapendo come mangiare. Non è incendiare il municipio, le carte in catasto per andare da stupidi in galera, rinforzando il nemico di pretesti. Quando ci si agita per giungere al potere non si arriva. Non è rivoluzione, si è mancata. Se si giunge al potere, la sostanza dei rapporti rimane come prima. Rivoluzione tradita. Rivoluzione è distinguere il buono già vivente sapendolo godere. Sani, senza rimorsi, amore. Rivoluzione è curare il curabile profondamente e presto, e rendere ciascuno responsabile.